Radio 2, sei basso basso, sì. Però ci sono giorni che arrivi molto meglio, eh? Anche così come sei adesso. Figurati, bravo, l'antenna è nata da fuori, appoggiata a due muri praticamente. Lo senti? Ah, bella zona quella, io l'ho detto, quella è una bella zona per te, per Porto Torres, per Sassari. Casa 95 Nobi. Guarda bene adesso, che lo sono usato, sono quasi 50 watt. Vedi, hai aumentato leggermente il radio e un segnale di 3. Ma non la portare con l'antenna, Natalia, se riesci a uscire. Già ti accorto a te, sì, Fra. Sì, Fra, è leggera e ci dà la possibilità di poter lavorare. Come fai a servirci una lampada lì? Va giù piantoni da un pollice e mezzo. Un pollice e mezzo, un pollice, il primo piantone, che sono già 4 metri, un pollice e mezzo, un pollice, che sono pesantissimi. Allora poi sei da tra a 6 metri di quello più leggero e più l'antenna, quanto vai a trattare la mantova? Mi vuoi fare aerea, invece così ci arrangiamo, capito? Con la corda. Ehi, capo, sì. No, quella lì è più leggera della mantova, lì, capita. La mantova, a parte che oltre alla lunghezza c'è una grossezza in più, è pesante, perché me ne accorgo io. Vabbè, io qua l'ho fatta diversamente, la mia scende il palo sino giù, sino a terra, scende, e poi ci lavoro io da sopra il muretto, e è una cavolata, ma lì c'è il muro in alto, è un casino lavorarci con la mantova. E figurati la mia, che arrivo a Rubiele, non ha più un palo, io ho 4 metri in palo, 2 metri attaccati al muro, uscirà, non lo so, è due metri, ho un tubo d'acqua da un pollice e mezzo lo stesso, senza niente, sta fatto a muro e boh, ma c'è un'altezza, quindi non c'è bisogno di alzare il picco. Lì dobbiamo superare tutta la facciata, capito? Quindi per forza ho dovuto aggiungere altre 4 metri di telescopico bello robusto da poter innestare quell'altro e da fare un bel lavoro. No, domani vi dico, domani vi dico, K, avanti Natalia. No, punto di trappano da 4, me lo devo far dare dall'elettricista, è fatto bene di mio. Dimmi da quanto, non ho punto di trappano, io trappano c'ho quello grande della Irti e c'ho le punte quelle enormi. Da quanto ti serve? Ma per muro? Ecco, stanno parlando. Non ho capito, Natali, cosa devi bucare? E per fare che cosa? C'è il telescopico che blocca, non c'hai i bulloni da 8, io ce li ho qui i bulloni. Non sono da 6, non sono da 8. Quindi, cosa devi bucare? Non dobbiamo bucare nulla, Natalia. Tiriamo su e stringiamo i bulloni suoi, capito? Una volta che c'è la saetta, come ti ho spiegato, che fa agganciare la staffa a quella alta, il tubo non cammina più, non si muove più, è impossibile che si muova quando è saettato. Ecco. Agita. Adesso facciamo entrare il vecchio Massimiliano, così se c'ha le punte ce le facciamo portare. Avanti Massimiliano. Che punte io vi servo? Vedi una cosa prima, ferma. Sì, ottimo. Quanto ce l'hai il microfono? Acceso il bullo, il microfono, senza solo farlo. Vabbè, processore inserito, aumenta mai chi. Vai a vedere, qualche punto, qualche. È un bel cuppare, un bel cuppare. Te l'appoggio. Aspetta così, guarda. No, è cuppa, Massimiliano. È cuppa. Ciao Marco, buonasera, c'è anche Franco da Sosso. È cuppa, Massimiliano. Cosa vuoi che dica? Aspetta. Cacco, perché stai passando il vate? Si parla da Santiago Zetti. Vai a vedere, 1, 2, 3. Allora, il coso, il come si chiama? l'outrider lì del Mickey Gay, a quant'è? Sotto la C. No, metti la manetta il Mickey Gay della radio. La manetta, guarda, 1, 2, 3. Vai, manca il gubba. Come chiedi controllo a Franco e chiedi controllo a Marco, dai, a Natalino. Per me può anche andare così. Ti ricordo che quel microfono non è adeguato per la tua voce. Però lascia la manetta al Mickey Gay. Volate il controllo per favore. Toni bassi. Toni bassi per non dire cupo. Sì, è molto cupa qua, ma si vede. Ma questo è il microfono regolare. Eh? Aspetta, ma si vede, avete parlato in due. Cosa ha detto Natalino? Ho capito, va bene. Marco sì, toni molto bassi, mi mancano gli acuti. Franco, cosa hai detto? È molto cupa qua, molto. Eh sì, è cupa. Gli slider del microfono, come ce li hai, Massimiliano? Guarda lì, c'è tonalità di quel microfono, alta o bassa, che tonalità ce l'hai tu? No, si bruscende. No, non stai uscendo, Massimiliano. Io già sto uscendo, sì. Sì, aspetta però, se no facciamo confusione, Marco, un secondo solo. Massimiliano. Oia, dimmela, guarda adesso. Adesso hai più tuoi acuti. Cosa? Allora, lì c'è un pulsantino vicino dove accendi la radio, che c'è scritto Love HI. Dov'è quel pulsante? Love in HI? Mettilo alto, tonalità alte. Dove vai? Cazzo ridi. Uno che sta male non deve ridere. Cazzo ridi. Vabbè, rido a metà. No, non devi dire niente. Massimiliano. No, perché poi si prende il raffreddore e muore. Vedi, già morto così. Allora, domani che dobbiamo piazzare l'antenna si intende male. Perché domani la dovete piazzare? No, aspetta che aspetto un'altra settimana, così questa antenna passa la storia. La piazzare, basta, si piazza domani, boh. Cosa gli cacca, che ancora esistendi? Mi sono andato su, oggi ho preparato il palo, la cassetta nella porta, tutta l'attrezzatura mi serve, domani prendo la scala e basta. Chi viene viene, se no ti lascia la giura l'antenna e non è gettata girando le balle. Massimiliano. Eia, 1, 2, 3, guarda dov'era. Ma mi ha cazzo anche tutta quella taglia, cazzo, boh. Rispondo al telefono. Ehi. No, io col coso che ho non posso uscire nemmeno, forse fra 3 giorni posso uscire, no? Claudio, devo camminare piano, la luce mi dà fastidio, non è così che passano. Parliamo anche qua, no? Ah, io ho il 5. Allora, Massimiliano, loro si sono spostati sul 5. Fammi sentire un attimo. No, non stai uscendo, che cazzo hai toccato? Guarda se hai toccato, la linea 1 devi toccare. Allora accendo qua adesso. Ok, fammi sentire. Allora, quando vai accendo il compressore, non funziona più il microfono. Non funziona più il microfono perché vuol dire che non c'è linea. La linea 1, l'1, ma deve funzionare, quel microfono è un po' particolare. Era un po' così, però non ne avevamo altro, quindi niente. Allora, già stai migliorando, evidentemente l'hai avviata in accesa. Prova. Guarda, dov'era? Ora, 1, 2, 3, prova. Sì, adesso va molto meglio. Franco, ci sei? Sì, però è leggermente sempre il cupo. Ha migliorato un po'. È 1,85. Non l'ha mai voluto vedere sul letto il microfono e poi non va bene per la sua modulazione. Ascolta, la tonalità, mi hai detto, c'è lì Love HI, che tonalità è alta adesso? Ok, non c'è né Love e né HI, c'è Tono e Love Cut. Però l'ho messo in Love Cut. Il Love Cut vuol dire che è l'altra, come fammi sentire, cambia mentre stai parlando. Guarda, così invece Love normale. Oh, vedi che adesso è più alta. Adesso abbassa leggermente il Mickey Gay della radio. A metà, guarda un po'. A metà dove? Sotto la C? Sotto la I. Adesso sta pompando fra. Sì, però mai sotto la C. Cos'è sotto la C? No, è sempre cupo. Ma cos'è? Il grigio? Ehi, sì, è quello mio. Non stavo usando però il 60 io non ne ho, quindi sto usando l'85, capito? Non mi piace, ma se metti off. Ho fatto quella con la mia, usarla, intanto non la stavo usando. Massimiliano, il microfono, cioè le leve, l'ho visto io, cioè le leve tutte su. Prova a passarne una, poi l'altra, boh, non lo so, fai qualcosa. Allora, ti rispondo una cosa, forse non hai capito bene. Quando io vado per accendere quelli due slider, non lascio più il microfono, è un peso. Tu vorrebbe? Lo slider, quelli le levette, quelli del microfono, le leve quelle che sono tutte in alto. Quelle due leve per accendere, metti il bello e compressore. Il primo scatto per accendere il microfono e va bene, funziona. Fai l'altro scatto e se ne fuori, non esce più il microfono. Ascolta, portali tutte e due, giù e su, giù e su, giù e su. Cazzo, è impossibile, stava funzionando quel microfono, è impossibile. Adesso tutto il giorno, adesso io non accendo e mi fa funzionare tutti due flower, se ne porto sul microfono, non va. No, no, sei tutto impazzato, abbassa ancora, abbassa gli slider del microfono, abbassali, se non, non temere. Questo non ti comprendevo, io non ti comprendevo in italiano, Nicola. Se devo accendere quegli slider lì, non funziona. Cosa devi accendere? Non si accende niente, gli slider, le levette, mi, quelle levette dove ci sono Mickey Leven, quello lì, a quanto ce l'hai? Mickey Leven. Sembra fuori frequenza. No, il microfono fa, il microfono. È la radio che uso io, è la radio che è mia, no? Non è un problema della radio, è un problema del microfono, e se il microfono non serve a una cicca, viene a funzionare male. Prova! Prova, penso che ti ha parlato di fatto, prova. No, sei tutto impastato, sì. Non c'è il microfono originale, ha provato. Sì, metti il microfono originale, metti, te lo faccio sentire. Metti il microfono originale, Massimiliano. Ehi, se mi danno tempo, questo è il microfono originale, com'è? Vedi, molto meglio. Solleva il Mickey Gay nella manetta. Ah, io, così la manetta, uno, due, tre, Ecco, il processore è inserito. No, adesso è inserito, prima l'ho disinserito, vaffanculo. Allora, cazzo, mi usi un 85 senza processore, è chiaro che ti si impatta tutta la modulazione, cazzo. Ma poi che ricambio, un secondo? Io, metti il Mickey Gay sotto la C, o sotto la I. Tu tratti senza processore, è chiaro che ti si impatta tutta la modulazione. Guarda a vedere, Claudio, 1, 2, 3, prova. Il processore è inserito. Figlia. E il Mickey Gay dov'è? Allora, tira di questa maletta, boh. Oh, vedi che già c'hai gli acuti. La posizione di quello là è sempre out, out. No, aspetta, l'ho detto out. Guarda a vedere, adesso è out, vedi un po'. Che cazzo di... Fra, vedi un po' adesso. Ha cambiato, una giorno alla notte. Cazzo mi usi, una radio del genere senza processore, con le tonalità medio-basse. Ma va, sì, chi sei tu, Massimiliano? Claudio, sicuramente non la stavo pulendo, una piccola. Va bene, adesso, va. Non è a livello del 60, ma comunque è più, molto più affidabile, no, Fra? Sì, chiaro, non c'è tra niente quello, non è a livello del 60, però, capita, è sempre una radio tipo questo, là, tipo 60, e dovrebbe uscire bene, però, come hai detto tu poco fa, quel microfono lì, io, neanche nel 60 sono riuscito a farlo andare. No, ma quel microfono mi piace, non mi è mai piaciuto, né l'80 né l'85, solo che c'era quello, capito, non ne ho altri disponibili, quindi ho detto prova questo, ma era un bel tempo fermo. Prova, Massimiliano. Vabbè, dai, vedo un po', mi sono avvicinato un pochino, migliora? Sì, adesso va bene, adesso è perché l'hai anche appena accesa la radio, che l'hai buttata una roba. Migliorato. Cosa pensavi, che non ce la facevamo a migliorare? Ma non lo so nemmeno che microfono è, Claudio. Un MC85, un MC85 sto usando l'altra radio che ci avevo io. Ah, ecco, ma c'ha la regolazione del tono, capito? Beh, è un equalizzatore, c'è un parametro con l'MC85, capito? Quindi se non trovi il punto esatto non esce bene bene, capito? Ma Massimiliano, così senti anche Natalino come ti andando adesso. Guarda, vedere, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, prova radio. Dice la radio 2 a Massimiliano. Anche se da processore, cosa hai detto fa? Ma detto, questa è la radio di Massimiliano. No, stai andando bene Massimiliano. Adesso sei tu, adesso sei un che vogliamo. Vabbè, dai, sicuramente perché mi sono avvicinato un po' al microfono. Va. Ok, va bene, 1, 2, 3, prova. Ehi, vabbè, anche se ti allontani 20-30 cm non succede niente. Sempre amplificato, lascia il processore inserito, le regolazioni vanno bene così, lascia l'accesa e così scala, perché già hai visto che era ferma da tanto quella radio, non ho manco la braccia. Non tocchese, non tocchese. Alla grande, ascolta, la potenza te l'hai regolata, lasciala scaldare e poi la regoli magari. 20 watt di portante bianca. Isciuga, va bene così, dai. Sì, 9,20 abbondante, 9,25 di picco. Lasciala andare a 20 watt, quando scalda magari ne dai 30, l'importante muta, 30, 40, così la fai scaldare, capito? Perché almeno rulla quella radio, sennò per avere un mugori. Va bene, va bene. Quindi fra, la senti bene adesso? Sì, sì, bellissima, bellissima con la modulazione. Adesso va benissimo. E quella lì è la serie A. Guarda, io sto modulando sempre un braccio perché non mi avvicino mai al microfono. Va bene che io sto usando l'MC60, sto usando, che è diverso da quello lì. Però quando lo tieni quasi un braccio va benissimo. E la tonalità già se la prende, il tipo non è fatto così. No, lo so, qualcosa già c'è. Qualcosa c'è la colpa. Ma chi manchi di radio, gatto, vuole il lock, mica il lock funziona. Ehi, acqua, ho schiacciato due volte, capito? Taccaimo, gatto. Per carità, cazzo, per carità. Noi dobbiamo fare più pasquetta, Se ti ritrovo ad Alghero, cazzo, faccio finta non conoscerti. Maledetto. Siamo giù di vecchia, cazzo. Sono andato a Alghero fra per evadere, per non vedere nessuno. Chi c'era ad Alghero? Massimiliano. Morto. Perché ti stavo inseguendo da lontano, ti stavo. Faceva l'investigatore privato. Il bottino si aggareggio, è peggio di me, capito? I suoi sono tutti ad Alghero, quindi. Anche io ero lì a pranzo, eccetera, siamo visti, caffettino, caffettone, ammata qui, ammata là, e poi è passato qui e si è portato via la parecchietta, così almeno. So che lì lo sento ogni tanto, e se no mi fa, giamba 1, giamba l'altro, giamba 1, giamba l'altro, almeno uso sempre questa e quella la usa lui. È un casino, ecco, per me lo stesso, ogni tanto cambio perché ne ho due. Il più che uso è questo qua, 60, poi il 440 rimane più fermo che altro, io ascolto lì sulle bande radioamatoriali e basta. Sì, no, vabbè, io ho quelle amatoriali HF, io due, quindi quelle sono per quella parte lì, e questa è per la 27, però c'è anche l'altra e quindi io adesso... Va bene così, dai. Marco, quindi lo senti bene? Ehi. Ma cos'è che c'hai? Mi ha detto Natalino che non stai bene, cosa c'è? Te l'ho spiegato già, il solito disturbo da quando ho 3 anni, è una cosa ormonale. Adesso ho pranzato regolarmente, ma lo stomaco un po' così così. Che miseria, non devo più vedere un picca cosa. Va bene, dai. No, Massimiliano, confermato allora, io sono già pronto, mi è sceso l'altro piantone, ho già innestato, mi ho messo i bulloni nuovi e la cassetta è già pronta. Allora, stavo dicendo Natalino queste punte. Allora Natalino, che punte servono? No, Natalino, non penso che abbiamo problemi. Mi devi solo dire una cosa tu. Quello che è già montato il tubo, stringono bene i telescopici? Perfetto, i piantoni che ho io sono nuovi e stringono bene, ok? Una volta che noi piantoniamo e tiriamo su i telescopici e stringiamo sui bulloni, noi non dobbiamo forare niente, perché quando l'antenna è tutta tirata su ed è messa nelle sue staffe, nella sua staffa di piantone, quando poi passa davanti all'altra, noi facciamo la saetta a misura, la saettiamo, Nathalie, il tubo non si muoverà mai più. Non si preoccupi dottor, sarà fatto, guarda. Se andiamo a rompere le balle agli altri, anche qui dell'autoscala e mi rampo, burro, cornicione. Adesso quello che abita di fronte vi dirà domani, mi state disturbando la televisione. E io gli rispondo Mari, capito? Gli rispondo Mari, e se non mi vuoi salutare d'agone, burro, anzi non abbiamo bisogno, anche Natalino vorrà P38. Domani mattina Nathalie, metti già tutto pronto nella finestra, dopo mi fa veda, riscuoi un tiro di palla così non fa veda più. Passatemi il pulso. Ehi, Piuma! Ragazzi, io vi saluto. Ehi, Massimilia, lascia tutto così, perché meglio di così non si può, capito? Le relazioni sono quelle. Vedi se trovi una cuffiettina, metti una cuffiettina antisoffio e lascia tutto così. E tienila accesa perché va tenuta accesa quella radio. Ok? Mi raccomando, non mangiare molto. Un abbraccio a tutti lì. Grazie dell'ospitalità, grazie di tutto. E ci sentiamo poi domani. Domani ci vediamo e ci sentiamo, ok? Già ti chiamo io domani mattina. Va bene, dai. Saluto a tutti, buona serata e buona continuazione. Ciao. Allora, bella radio però adesso. Sì, sì, bella, bella. Ciao, Mattia. Così, con tutto, dai, ci aspettiamo le prossime. Spedati voi che piazzate l'antenna domani. Dai, Marcoli, se ti senti bene, è giusto così una... un passaggio fatto, noi dalle tre siamo lì, giusto così, per una due chiacchiere, hai capito, una consulenza, tu l'hai già piazzata, l'hai già taratta, non devi fare niente, già ci arrangiamo noi, ma fatti vedere se stai bene, capito? No, non posso, mi dà fastidio la luce, posso manco camminare, non credo di poter guidare, assolutamente, io potrò, forse potrò uscire dopo domani, non dopo domani, dopodomani l'altro, cioè non dopodomani, ma immaginati a mercoledì a uscire, forse. Se mercoledì, domani è martedì, dopodomani è mercoledì, quindi a giovedì a venerdì puoi uscire, va? Infatti mi ha rovinato la Pasqua questo... Oh, ieri ne ho buttato gli occhi e non hai idea, non hai idea. Non stava dicendo Natalino, non stava dicendo... Veramente è un peccato perché insomma c'erano queste feste da poterti godere, da poter uscire un po', ma invece è toccato stare a casa. Ok, ciao Elio Piuma, buonasera, ben sentito. Buonasera, mi sembra che state le voci, mi state disturbando. Ok, aspettate un secondo che c'è Giuseppe, avanti Giuseppe. Benissimo, benissimo, Santiago un po' più basso, adesso abbia un po' di pazienza che poi gli agganciamo quel linearetto, quel baracchino. Segnale un po' più basso però va bene. Ciao Giuseppe, ben rientrato, dai. Vabbè, chissà perché mi è venuto proprio a Pasqua. Ma stava già covando, perché io avevo questa emicrania strana già i giorni prima, due giorni prima, ho detto, grazie ci cova, infatti. Lo so, ascolta Giuseppe, come mi senti di ricezione? Senti bene? Cambio avete fatto? No, l'ho riparato un baracchino. te l'ho detto che non lo metto le mani io lì, hai visto? Arrivi benissimo e c'è una bella ricezione, tu dicevi che non andrà via, no, già va. Poi adesso in settimana ci vediamo, ti porto su quel lineamento e me l'ho sceso per controllare, così te lo aggancio e recuperi anche qualche watt in più e arrivi benissimo. Molto bene, molto bene. Ricordati sempre che i vecchi baracchini funzionano sempre. Sempre. E allora io più, tutto a posto? Tutto a posto, ottima Pasqua, ottima Pasquetta. ringrazio tutti coloro che mi hanno dato da mangiare in questi giorni e niente, a riposo per una settimana. Quindi queste cose qua si mangia in buco. Quindi ha recuperato tutto quello che ha ammazzato e via, da suoceri. No, ieri ero a suoceri, ci siamo visti. Oggi ero con amici. Poi, per carità, che schifo, non si può, non si può andare avanti così. Il cavallo che non l'ha visto poco fa si è vergognato. Ma è già di napoli. Si vive di queste cose, cosa ci dobbiamo provare anche di mangiare. Ma per carità, no, io non sono andato molto, molto pesante, perché stamattina ero a lavoro, quindi poi sono rientrato a casa a mezzogiorno e mezza, e alle tre siamo andati ad Alghero, e quindi sono rientrato che erano le sette e mezza, perciò non ci stanno problemi, ma mangiato normalmente, domani si riprende la settimana, poi domani sera andiamo là. La Natalina montare l'antenna, un po' in greffa, così, anche lui, è a posto, e poi si riprende la normalità, dai. Ok. Avanti, Franco, Sorso, cambio. Ehi, capo. Ciao, Elio, buonasera, ben ascoltato. Chiedetemi a me un ascolto, perché c'è un po' di correre. Niente, avanti a te, Elio. Capo, scusate, io sono un po' maleducato, sono stato senza salutare, ma mi stava disturbando, infatti ero in bagno e lo sciacquore scendeva da solo perché c'era quello dove stava parlando la radio, e qua devo fare lo scala e casino, tre volte lo sciacquore si mette in funzione da solo, e te si dedica a passare in voce, se no continua a consumare acqua qua. Buonasera a tutti, buona passata Pasquetta e passo a tutti. Ma c'è un amico che è andato, mi stava raccontando, che è andato dal turismo oggi qua, e si è seduto a tavola, si è avvicinato alla camera e gli fa a questo amico, guarda, noi non mangiamo né latticine, né uova, né carne, né soia, né prodotti cocotti, né noci. E la moglie ha detto, cosa ci consiglia la corriera? E la moglie ha detto, ma tu arrivi da coglioni. Figura di Duca, fa carezzare. No. Noi niente, agriturismo a casa, lì ad Alghero, e siamo stati benissimo. Poi a Massimiliano, siamo andati a fare una visita a Giuseppe, abbiamo messo a posto un paio di cosette e poi ce ne siamo rientrati, va bene. Ok signori, però è ora di cena adesso, perché purtroppo è avanzato un sacco di roba e quindi adesso siamo a casa. Vado a dare una sussa, quindi io vi saluto tutti. Giuseppe, un abbraccio grande, ci vediamo in settimana, ok? Ti sente ma basso, Giuseppe, ti sente ma basso a Sorso. A Sorso arrivi benissimo. Anche a Usine. Anche a Usine arrivi benissimo, capito? Però l'amico di Sorso fa un po' di difficoltà a ascoltarti. Però adesso appena solleviamo un pochino la potenza in quel baracchino, vedrai che arrivi anche a Sorso. Un po' di pazienza, Giuseppe. Adesso usalo così, intanto io l'inialetto me lo sono portato a casa e domani vado e me lo faccio controllare, se è da controllare, se no me lo faccio sostituire come abbiamo deciso. Va bene, un abbraccio a tutti, ciao Elio, ciao Giuseppe, ciao Natalino, ci vediamo domani, ciao Marco, ciao Franco, ciao anche alla banda di Massimiliano Bulldozer che non dico niente, e vi saluto tutti, a domani, vado a cenare ma non riprendo più perché sono già le 9. Ciao a tutti, microfono per Marco, ciao. Ciao Claudio, dai, buona serata, buon tutto, e vabbè domani fate anche la mia parte, dai, purtroppo è andata così. Riprendi Elio, com'era la storia del glutine? Ma ti saluto Marco, saluto anche a te, saluto a tutti insomma quelli che c'erano, sono tutto così. No, non hai capito. Quella è andata a pranzare in un agriturismo con la moglie. Si è seduta a tavola, si è avvicinata alla cameriera e gli ha detto alla cameriera, mi raccomando, che non ci sia, va bene tutto tranne di cavallo, tranne questo, tranne quest'altro. Vabbè, noi da poco fa, devo ripetere. Sì, non ho capito. detto la fine, cosa gli ho detto? Uscircene dalle balle. E certo, la cameretta ha detto non mangiare, ma cosa l'abbiamo detto, cosa ci consiglia? Di risolvere, andate voi. Scusa, se non vale aiuta. Vabbè, dunque, ciao Franco, ben ascoltato, ciao Claudio, buona serata, buona continuazione di mangiare. Sa anche gli avanti si mangia, bubù. Per carità, ma vado a letto per mangiare niente oggi. E saluto anche l'amico di Alghero, non ricordo il nome, come si chiama l'amico di Alghero? Giuseppe. Giuseppe, dai, sta arrivando bene, S9, una radio un po' bassa, però già arriva bene, dai. Ehi, vado via anch'io, dai, che ho lo stomaco un po' pesante, dai. Ho già capito l'antifona, come va a finire anche oggi. Ciao, Sandro, ma Sandro, sì, buonanotte, Franco da Sorso, Elio, Giuseppe, Natalino, dai, chiudo anch'io perché un po' così lo stomaco, dai. Natalia, domani. Come dai? Ciao, Dario, sento Natalino sotto. Dai, passa anche in quelli che sto facendo cosa. E poi me ne vado a Italia a nonna. Ciao a tutti e buona giornata da domani. Ciao! Ciao a tutti, dai, ciao ciao. Sì, vai. Ciao Marco, ciao Elio, ciao anche a Natalino e a Claudio. Ci ascoltiamo alle migliori. Buonanotte a tutti.